Mare, conserva questo amore, sotto sale fino a che tornerà l'estate e il sole. Mare, conserva questo amore, sotto sale e l'amore che ho sentito.